Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Andiamo a venire da piangere, perché è proprio brutta sta cosa. A me fanno i complimenti, ma io non ho complimenti né niente, cioè c'è stato veramente, cioè loro complimenti, congratulazioni del coraggio, veramente. Ed è così, sono tu, anche a mia mamma, mi hanno scritto tantissimo, mi hanno scritto nel gruppo delle mamme, perché sono un gruppo delle mamme che... Un sacco di mamme che sono disperate perché loro non hanno lavoro, sono state licenziate perché sono rimaste incinte o non gli hanno rinnovato il contratto. Mi stanno scrivendo, mi sento un po' la Giovanna d'Arco della situazione. Tutti hanno gioito per qualche ora leggendo la notizia, che in realtà è stata veramente sparata con grande evidenza in tutti i giornali, che un imprenditore assumeva una donna incinta di 9 mesi. Che gesto meraviglioso, siamo stati tutti contenti, finalmente cade un annoso e sgradevole pregiudizio nei confronti delle donne che, se sono lavoratrici, vengono guardate con sospetto, se sono in età da poter fare figli. Mai nessuno assumerebbe una donna appena sposata, in età fertile. La prima cosa che chiedono: ma sei disposta a fare figli? C'è figli in programma? Perché non c'è capo delle risorse umane che non tema come la morte il fatto che una dipendente si prenda la gravidanza? Questo imprenditore ha fatto un gesto totalmente anticonformista, in totale disprezzo di questo pregiudizio, dice: assumo una donna incinta di 9 mesi. Tutti sono stati felici e contenti, sembrava l'inizio di una nuova era, se non che un'altra donna, ex dipendente o ancora dipendente, non ho ben capito, comunque che ha avuto a che fare con questo datore di lavoro, ha detto: ma è tutta un'operazione bieca di marketing, in realtà tratta male noi donne, in realtà ci sarebbero stati molti precari che avrebbero meritato più di lei di essere assunti. Lecito pensarlo, figuriamoci, però mi viene da riflettere sul fatto che una donna in fondo colpisca un'altra donna su un piccolo diritto acquisito, una piccola battaglia rispetto a ciò su cui combattono le donne da anni, non essere discriminate nel luogo di lavoro per il fatto che loro sono passibili di gravidanza. E questo mi ha fatto pensare, associandolo a tutta un'altra serie di episodi, che in realtà questa grande solidarietà tra donne, questa sorta del corpo delle donne che rispetto agli uomini è capace di creare una sorta di organismo comune che si difende, che si protegge, insomma questa favola sciatta e frusta della sorellanza femminile sulla quale noi siamo stati allevati. Guardate noi donne, siamo compatte, le donne in realtà sono un corpo unico. Le donne hanno un sottile senso di proteggersi a vicenda dalle insidie maschili, che sia tutta una grandissima panzana. Vi farò riflettere su alcuni episodi fra qualche istante, vi dimostrerà comunque che da alcuni segnali evidenti che vengono da donne che sono baciate dal successo e alla fortuna, questa idea che le donne tra di loro siano più amiche, più sorelle e più solidali quanto lo siano gli uomini tra loro è assolutamente una grandissima leggenda. Le donne tra loro sono terribili, sono spietate, lo sono esattamente, se non peggio, come siamo noi uomini tra di noi. Sono competitive, ma soprattutto vanno a colpirsi nel punto più debole, laddove sembra che in realtà la donna è più fragile, che è sempre legata alla sua indubbia e fisiologica differenza rispetto all'uomo, per il fatto che è più debole, che è più fragile, che è socialmente sempre più svantaggiata, che comunque ha dei punti deboli sui quali gli uomini hanno sempre usato e hanno fatto il loro punto di forza, e che le donne oggi sembrano conoscerli bene e usarli per massacrare altre donne. 800 24 00 24. Voi ci avete mai creduto alla sorellanza tra donne? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Giro di poche ore è diventata virale la notizia che Greta Menchi sarà a Sanremo 2017 nella giuria di esperti. C'è qualcosa che non torna, si sono limitati a pensare in molti, lasciando a tanti altri il compito di ricoprire la giovane youtuber di insulti e offese. già autrice della biografia Il mio libro sbagliato e manager di un canale YouTube che conta oltre 1 milione di iscritti, Greta Menchi a Sanremo 2017 ci azzecca apparentemente poco. La vlogger ha ricevuto aspre critiche proprio dal web che l'ha portata al successo qualche anno fa e adesso tantissimi si ritrovano a stigmatizzare la sua presenza accanto a mostri sacri della musica e dello spettacolo come Giorgio Moroder, Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido e Giorgia Surina. Qualcuno ha scritto: Greta Menchi nella giuria di esperti è credibile quanto me come modella di Victoria's Secret. Qualcun altro si è chiesto dubbioso: ma riconoscerà Albano? Anche questo è un altro episodio. Greta Menchi è una ragazzina che deve la sua fortuna ad essersi saputa vendere bene l'immagine come youtuber. Ha un pubblico enorme di altri ragazzini, ha scritto libri, è stata anche ricevuta in udienza dal Papa, pare che sia fidanzata con Fedez, che è uno degli idoli di questo momento, fa parte della giuria di Sanremo, ma figuriamoci, è passato di tutto nella giuria di Sanremo, potrebbe anche starci lei, non vedo perché no. Fondo è rappresentativa di un gusto di una generazione che non è mai stata lambita dal Festival di Sanremo, anzi una scelta anche abbastanza intelligente. È stata massacrata nei social, massacrata nei famosi gruppi chiusi su Facebook dove gli uomini, soprattutto gli uomini, gli onesti padri di famiglia, i bravi fidanzatini, danno sfogo a quello che una volta non si leggeva nemmeno nei cessi delle caserme quando si faceva il servizio militare obbligatorio. Beh, ho letto, riportate da una collega, fra poco sentiremo, alcuni dei commenti sono stati fatti sul fatto che Greta Menchi fosse diventata giudice di Sanremo. E molti di questi commenti, quelli più sboccati, più volgari, quelli usano un torpiloquio più maschilista spinto, che nemmeno nei dialoghi scritti per i pornostar nei film più estremi si trova qualcosa di simile, erano scritti da donne. Altre ragazze che la trattavano come una poco di buono, a dire poco, semplicemente perché lei era arrivata a fare la giudice a Sanremo. Donne contro donne che usano sistemi tipicamente maschili per denigrare, massacrare, svilire l'idea delle donne. Ma non è soltanto l'ultimo episodio, ce n'è un altro. Uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato in questo spazio è anche perché sei stata al centro di un episodio sgradevole e molte persone purtroppo, soprattutto donne, rimangono vittime. Sono state hackerate e poi diffuse in rete alcune tue foto private. Proprio ti sei sentita... hanno rubato una parte di te. Sì, allora devo dire che è stata tosta. È stato un colpo molto violento e dopo una prima fase di forte sgomento ho deciso di reagire. Lo riassumo velocemente, visto che ne abbiamo già parlato quando trattammo la prima giornata, la prima serata del Festival di Sanremo, ricordate, Diletta Leotta, bella telegiornalista sportiva, è stata protagonista di un episodio di furto delle sue immagini private dal suo cloud, che sono state poi diffuse in rete. Ha avuto il coraggio invece di nascondersi, di dichiarare questa cosa, proclamando comunque il diritto di avere sue immagini private. Uno si può fare tutte le foto che vuole, quando vuole, con chi vuole, le tiene chiuse nella cassaforte del suo cloud e nessuno ha diritto di prenderle e diffonderle in rete. Si è presentata a Sanremo in tutta la sua apparenza fisica, una bella donna, gli piace essere, anzi una bambina, ha 25 anni, qualcosa del genere, bella, gioca sulla bellezza la sua carta, la bellezza non è un limite, non è da considerare come qualcosa di sbagliato, si può essere belle come si può essere intelligenti, come si può essere acute, come si può essere un'infinità di altre cose, fa parte delle qualità di un essere umano. Fondamentalmente l'episodio che riporta la nostra riflessione è che Caterina Balivo, un'altra diva televisiva, in maniera molto acida ha sottolineato il fatto che lei si fosse messa in mostra, avesse aperto lo spacco della gonna a far vedere le gambe, insomma fosse stata troppo femminilmente seducente, dando adito comunque alla più antica e più scellerata delle risposte maschili quando una donna viene violentata, stuprata, privata della sua dignità. Sì, se si metteva meno in mostra non succedeva. Donna su donna ancora una volta. Poi faccio l'ultimo episodio, che proprio di cui non ho testimonianza audio, però è stato denunciato proprio in questi giorni. Giorgia Meloni va al ristorante, mangia tranquillamente, viene fotografata senza che lo dichiari da Asia Argento, altra attrice, donna famosa, che mette su Instagram questa foto scrivendo in inglese una didascalia orribile, dicendo c'è la schiena lardosa, schifosa, cose del genere. Già è brutto, perché la Meloni ne avrà fatto anche motivo di ostentazione e di propaganda politica del fatto che anche ha avuto una figlia, va benissimo, però una donna non dovrebbe dire un'altra donna, sei sovrappeso, fai schifo. Ha risposto la Meloni, per non essere da meno, però si difende dicendo sì, però non faccio come tante che tirano cocaina per essere magre. Donna su donna sempre. Che sta accadendo nel mondo delle donne? 800240024. Luca, velocemente. Sì, buongiorno. L'ascolto. Ma io ho una testimonianza in diretta, nel senso che ho vissuto al fianco di mia moglie tutta una serie di amicizie femminili, le sue, che puntualmente sono finite male, nel senso che non sono mai state delle vere amicizie. Nel momento in cui c'era un minimo di competizione o un minimo di fastidio, diventavano immediatamente delle cattiverie di altissimo livello. Mia moglie, per sua sfortuna, è molto più maschile su certe cose, quindi non è fatta così. Esternamente sì, vedevo queste ex amiche con una cattiveria tipica, secondo me, poi possiamo essere d'accordo o meno, della femmina, mi passi il termine femmina non donna, che quando vuole far del male con le parole, con la lingua, è molto più brava di un maschio. Sì, questo ci sta, rientra nella tradizione classica, capito? La novità, semmai, è che la donna usa strumenti tipicamente maschili. Tutte le battaglie comunque hanno fatto le donne, se vuole molte anche affogate e depotenziate all'ideologia, dall'ipocrisia, dalla valenza politica, avevano comunque hanno fatto delle conquiste, riuscendo a smontare alcuni meccanismi di sopraffazione tipicamente maschili. In questo momento donne celebri, donne che hanno comunque possibilità di essere visibili, o non celebri, che usano i social network, che sono uno strumento comunque di esposizione del proprio punto di vista anche da chi non è celebre, usano gli stessi sistemi tipicamente maschili per far del male ad altre donne. Cioè le donne sembra che abbiano imparato dagli uomini a usare gli strumenti peggiori verso le donne. Questo è il mio punto di vista. Liana, buongiorno. Buongiorno. Senta, la perfidia della donna è la peggior cosa che esista sulla faccia della terra. Perché le spiego. Dunque, a me è morto un figlio 9 anni fa. Alcune mie amiche invece hanno i loro figli della stessa età del mio. Un pomeriggio io ero in un bar a bere un caffè e una mia amica, vedendomi, mi guarda e mi dice: oh, vado adesso a prendere il mio nipotino che ha avuto mio figlio l'anno scorso. Io era 2 mesi che avevo perso mio figlio, sono uscita, non ho proferito parola, però ho capito quanta perfidia ci può essere in famiglia. Però Liana, l'ho capita, però lei mi cita un episodio da manuale di perfidia femminile su argomenti femminili. La donna che ha l'onore e l'orgoglio del nipotino sbatte in faccia un'altra donna al fatto che lei non ha avuto la stessa cosa. Accade davanti a tutte le scuole quando le mamme fanno i confronti sui loro figli, sui loro tesori che stanno per riprendere o hanno appena accompagnato a scuola. Rientra nelle baruffe da gineceo. Oggi voglio capire se c'è una circostanza in più, un segnale in più. Selvaggia Lucarelli, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se mi aiuti. Questa è una mia idea, poi ho detto posso anche sbagliarmi. Ricordo che Selvaggia Lucarelli è una blogger, una conduttrice, scrive per Il Fatto Quotidiano. È stata la persona che, tra gli episodi che ho citato, è stata la prima, soprattutto l'episodio Asia Argento Meloni, a segnalarli come singolari episodi in cui le donne usano delle maniere forse nuove per attaccarsi tra loro. Vediamo se secondo te c'è qualche barlume di verità in quello che penso. Le donne che usano strumenti maschili per sanare o per combattere l'eterna rivalità che c'è sempre stata tra le donne. Guarda, io non direi sanare, combattere, direi che c'è l'intenzione molto maschile, maschilista, di rimettere le donne al loro posto, che è una sfumatura diversa. Cioè, tu provi a uscire dal ruolo decorativo che gli uomini e la società ti hanno puntualmente riservato. Ecco, noi che invece siamo spaventati da questa rivoluzione, ti rimettiamo al tuo posto. Cioè, Diletta Leotta, tutto sommato, se fosse stata un ospite che a Sanremo fosse andata lì a cantare la canzoncina o a raccontarci l'aneddoto della sua infanzia, di quando guardava il festival con i genitori e sognava di fare quelle scale, alla fin fine sarebbe piaciuta a tutti. Ma Diletta Leotta ha commesso un peccato mortale, cioè ha cercato di lanciare un messaggio, cioè svestita o comunque vestita con quella sua aria sexy che giustamente si è portata anche a Sanremo. Vabbè, se ce l'ha, perché deve nascondersi? Ma poi soprattutto, nel senso, è la sua immagine, così si propone quando parla di calcio, invece giornalista a Sanremo come doveva andare, col tailleur o col burka? Cioè, mi sembra normale che insomma in una trasmissione di intrattenimento si vada anche per quello. Ecco, lei ha osato. È chiaro, lei passa la storia per la conduzione Callipigia, perché dovrebbe a Sanremo essere diversa. Certo, e quindi lei ha osato lanciare un messaggio importante, cioè ha osato parlare di qualcosa che non fosse appunto la cavolata di turno riservata a quel momento di Sanremo, e quindi immediatamente c'è stata l'indignazione generale. E no, stattene al tuo posto, soprattutto da parte delle donne, vestita così stattene al tuo posto, come ha scritto qualcuno, non ci puoi venire a fare la morale vestita così. Ora, innanzitutto vorrei sapere quali sono gli abiti giusti, qual è il dress code. Il burka, tu devi andare col burka vestita da suora, dire ormai sono pentita dei miei peccati, quindi certo, posso dirlo. Abbiamo un dress code per la morale, ce n'è uno per ogni messaggio che tu vuoi lanciare, no? Adesso bisognerebbe fare un opuscolo. E quindi questo destabilizza, è profondamente destabilizzante anche per le donne che, come ho scritto sul Fatto, hanno sostanzialmente interiorizzato negli anni il patriarcato, cioè hanno assorbito un certo tipo di mentalità e l'hanno fatta propria, un tipo di mentalità che è sempre stato... E però vedi, allora torni alla fine della tua lettura, più o meno a quello che dico, le donne hanno acquisito lo strumento tipicamente maschile per rimettere le donne al loro posto, e lo usano, lo stanno usando, lo usano donne pubbliche, donne che in realtà dovrebbero essere molto più padrone delle loro esternazioni. Si vede che non c'è più niente da salvare o da nascondere. L'ultima battuta, poi ti risentiamo dopo la pausa, l'episodio invece Asia Argento, Giorgia Meloni, come lo giustifichi? Allora, io lo relego di più al, diciamo così, alla casella rissa da bar, mi sembra un tantino più greve e di bassa lega, devo dire la verità. Certo è che, come sempre accade, quando si vuole colpire una donna nel profondo, cioè la si attacca sul piano fisico, perché si sa che su quello siamo ancora molto molto molto suscettibili, ed è un argomento che ovviamente è stato per anni, per secoli e per millenni proposto dagli uomini. Cioè l'osservazione sul chilo di troppo, eccetera, è qualcosa di cui abbiamo sempre sofferto, sempre patito. Sappiamo benissimo che il giudizio estetico è quello che in assoluto temiamo di più, no, da parte degli uomini, in un certo clima e piega maschilista che c'è in questo senso, e quindi lo riproponiamo quando sappiamo di voler ferire. In quel caso Sergento voleva banalmente ferire. Se ci fosse stato seduto lì Gasparri, probabilmente avrebbe fatto leva su qualcos'altro, sulla smorfia, il suo commensale. Mi sorprende un pochino però che anche l'antagonismo politico, che è lecito, passa attraverso questo meccanismo. Ci fermiamo solo un istante, Selvaggio, e sentiamo fra proprio pochi secondi. 800240024, tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, stiamo parlando di una nuova riflessione su quello che è il mito letterario, più che altro ideologico, più che altro della sorellanza tra donne. Sta assumendo nuovi contorni quello che è il normale, antico, atavico e genetico antagonismo tra donne, che in fondo era finalizzato ad ottenere il maschio alfa e quindi avere maggiore progenie. Oggi è finalizzato magari avere maggiore visibilità nei media o qualcosa del genere. Giorgia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza. Io sono attualmente il presidente dei giovani dottori commercialisti di Mantova. Lei è una giovane commercialista di Mantova? Sì. Giovane, ho 38 anni, sono giovanissima, ma siamo giovani fino a 43 nel nostro ambito. Quindi a 44 si diventa vecchi commercialisti? Sì, sì. Per lo statuto sì, poi dopo noi accettiamo anche gli over nella nostra associazione. È un mondo tipicamente maschile. Ma cosa fate? Le giovani commercialiste quando compiono 44 anni, dite, fuori dall'associazione? Diciamo che nel consiglio direttivo non possono più essere votate, è un'associazione che tende a tutelare i diritti dei giovani professionisti. Ma nemmeno se si rifanno tutte, si fanno belle, nemmeno quello. No, non le prendiamo più. Beh, triste però, pensi lei questa uscita dal tempio a 45 anni? Vedremo di modificare lo statuto, di portarlo un pochino più avanti. Vabbè, tanto alla fine c'è sempre un'uscita, quindi sì, purtroppo sì. Meglio essere crudele. Prima o poi, abbassate esatto. L'età a 35 anni, così almeno sono giovani davvero. Sì, siamo già. No, a quel punto sono fuori anch'io, quindi io non lo faccio. Vabbè, andiamo al punto, Giorgia, che le è successo? Andiamo al punto. Io sono stata nominata quando ero incinta, quindi donna incinta, il mio direttivo mi ha dato fiducia ed era composto principalmente da uomini. Vabbè, mica le davano uno stipendio dove andare a lavorare tutti i giorni, scusi. No, siamo associazione di volontariato. Allora grazie al piffero, che fatica facevano? No, nel senso che comunque ha un ruolo, un riconoscimento che viene dato e viene dato. Vabbè, farete tre cene sociali all'anno, una riunione ogni otto mesi? No, assolutamente, siamo un'associazione molto operativa e anche... Diciamo, ma cosa organizzate? Caccia al tesoro? No, si immagino, organizziamo convegni, corsi, organizziamo anche una mobilitazione della professione, adesso... c'è anche spesso sul vostro giornale la mobilitazione dei commercialisti a favore della nostra categoria, quello sciopero indetto per la fine del... Sì, l'ho visti a Roma con i pulmini, esatto. Tutti Marel però erano, non c'erano già. C'ero anch'io. Peccato, l'ho incrociata, Piazza Esedra, stanno lì con i cartelli commercialisti che protestavano. Insomma, è un momento di fermento per la nostra categoria, però l'esempio che volevo portare era questo, che quindi a livello locale gli uomini hanno supportato. Quando c'è stato un passaggio a livello diciamo regionale per accedere alla giunta di quella nazionale, chi mi è venuto a mancare è stato il voto delle donne. Quindi io non voglio portare il mio esempio come chissà che esempio, è solo per dire che quando le donne faranno lavoro di squadra, secondo me riusciremo a raggiungere anche ambiti. Quindi le giovani commercialiste l'hanno silurata praticamente, questo? Più o meno sì. È silurata delle giovani commercialiste, proprio sulla parte più delicata che era il suo ruolo di femmina madre e commercialista allo stesso tempo. Esatto. Mi sembra chiaro. Selvaggia Lucarelli, la testimonianza cruda e dolorosa e sofferta della giovane commercialista ti porta a riflettere? Guarda, io faccio già molte riflessioni tutti i giorni, perché intanto la saluto. Perché io ho a che fare con il mondo femminile costantemente e uso spesso come termometro, no? Come mezzo di comprensione della realtà anche il web. E te stai abbastanza sulle palle, mi si passi la metafora, a molte donne, diciamo la verità. Ma mica solo io, sai. Beh, ma tu ti esponi, tu... Mi espongo, sai, ci metto la faccia, quindi io ho i risultati, gli altri magari non li conosco. Allora raccontami un episodio. Della professoressa che si è inviperita perché tu riprendevi un suo allievo perché aveva fatto un atto di bullismo cyber proprio nel momento in cui stai spiegando una classe, queste cose andavano male. Sì, dopo 3 ore che si parlava di bullismo, tra l'altro in una bellissima conferenza con l'ausilio di polizia postale che aveva detto la sua, psicologi che avevano detto la loro, con insegnanti, addirittura vittime del bullismo che erano salite sul palco, quindi ragazze e ragazzi che avevano raccontato la loro storia, io sono andata lì, ho parlato ovviamente di cyberbullismo, quindi ho fatto il mio bel discorsetto, insomma le numerose classi avevano ascoltato, quindi uno suppone che dopo 3 ore e mezza anche il più disgraziato dei ragazzini, insomma qualcosina almeno fa finta, ecco. Sì, almeno per un effetto temporaneo, sai, quelle cose che durano 10 minuti potrebbe esserci. Invece mentre mi siedo e mi metto lì ad ascoltare il giornalista del Corriere della Sera Castelnuovo, insomma a un certo punto ricevo un messaggio in cui mi si dice che un ragazzino presente a questa conferenza mi aveva fotografata, ha messo la mia foto su uno di questi gruppi chiusi che si chiama Pastorizia Nevertise, in cui lo sport nazionale, lo sport preferito è dare della cagna alle donne. Tra l'altro, sul ritorno in auge del termine cagna farei una riflessione, perché se c'è proprio un termine che dà l'idea, no, della donna confinata nella sua cuccia e della sottomissione. Allora, dai tempi di Giovanni Verga, la lupa, sì, cioè è una cosa antichissima. Tempi, no, no, credimi Gianluca, negli ultimi tempi il termine cagna sul web trionfa rispetto ai vari puttani. Poi non trovi che sia un paradosso? Per i cagnolini la gente si sdilinguisce manco fossero esseri umani. E la cagna invece deve fa schifo, chissà perché. Ma non fa schifo, però sta al suo posto. Mangia i croccantini, scodinzola. E i cagnolini vengono dalla cagna. Se ti intenerisci per i cagnolini perché devi farti schifo la cagna? Comunque, insomma, per farla breve, mi dicono che un ragazzino in questa sala nel frattempo aveva messo la mia foto, aveva invitato ovviamente tutti gli utenti di questa pagina ad insultarmi. Quindi io risalgo sul palco, mi mandano il nome e il cognome di questo ragazzino e dico: c'è Tommaso Tal dei Tali in questa sala? Alza subito la mano Spavaldo. Io gli chiedo di salire sul palco e a quel punto gli faccio vedere questo messaggio e gli dico: perché l'hai fatto? Vorrei precisare, perché molti ritengono che questo sia bullismo a sua volta, la solita manfrina, eccetera. Cioè, mettere le persone di fronte alle loro responsabilità ora si chiama bullismo. Da quando? Non l'ho mai sentita questa. Comunque, dico per gli ascoltatori che non hanno tutti gli strumenti, mettere una foto di una donna in quei posti è come dire il tiro al bersaglio, capito? È come mettere il numero di telefono dentro il gabinetto dell'autostrada, è la stessa cosa. Esatto, tu sai benissimo quali saranno gli effetti e i risultati. Quindi, insomma, questo ragazzino, devo dire che alla fin fine subito capisce di aver fatto una grandissima cavolata, chiede scusa, un po' così, ma a quel punto interviene la sua insegnante, che sale immediatamente sul palco come un erinni e comincia a dire che io stavo dando un pessimo esempio, che era un ragazzino, che lei aveva la tutela di questo ragazzino, che non si educano così i ragazzini, e c'è, che io avevo detto parolacce. Tra l'altro, le parolacce che avevo detto era semplicemente un, cioè, avevi letto i messaggi che dicevano, certo, quindi sono io che avevo detto parolacce. Sì, che poi la schizza lì in faccia, queste cose che normalmente scrivono in questi bei posti. Sì. Sì, evidentemente lei preferisce non sapere, negare la realtà, in modo che forse, boh, non lo so, il suo compito di insegnante le sembri più facile, e a quel punto si è portata via questo ragazzino come se lo dovesse difendere da chissà che cosa. Ecco. Che poverino, resterà coglione tutta la vita, perché protetto dall'insegnante, come protetto dalla mamma, protetto dal mondo, continuerà a fantasticare nei suoi luoghi segreti. L'ultima domanda, Selvaggio, poi ti lascio in pace. Mi dici, non per dare il fianco a tutti quelli che dicono che nella rete ci sono i peggiori abomini, però noi, grazie ai social, grazie alle indagini approfondite anche nelle parti segrete e nascoste dei social, ci stiamo rendendo conto che è quasi un termometro di un evolversi, anzi di un tornare indietro alla società? Sicuramente c'è un'involuzione. Io credo che la possibilità di aggregarsi in questo senso sia distruttiva. Lo scemo isolato, l'ignorante isolato, il cretino isolato è pericoloso fino a un certo punto. Il fatto che oggi tanti ignoranti, tanti trogloditi, beceri, con questa volontà proprio di distruggere, io dico proprio distruggere, che è quello che stanno facendo, perché stanno vincendo loro. Beh, il troglodita è sempre distrutto. Ma il fatto che ora possono fare gruppo con questa facilità, cioè prima dovevi andare allo stadio, dovevi fare, insomma, c'erano tutta una serie di luoghi in cui si riunivano con una certa frequenza. Oggi basta accendere il computer e ti ritrovi altri 1000 cretini come te che ti fomentano, fomentano te, cioè guarda cosa è successo a Vasto. Alla fine è la prima volta in cui si è detto chiaro e tondo che l'odio social ha avuto una sua parte nel fatto che questo abbia preso una pistola e abbia sparato, ed è abbastanza inedita come cosa. Ma cioè, ti ricordi, noi ci siamo sentiti qualche mese fa, sì, e certo, la nostra preoccupazione era proprio quella, l'odio dei social non è altro che il segnale d'allarme di qualcosa che sta entrando nella società. Tutti ci prendono per scemi, dicono no, ma sai, esatto. Però vedi che esattamente sono i primi segnali. Beh, ti lascio ai tuoi impegni, grazie Selvaggio del contributo. Grazie Luca, ciao. A presto, ciao. Ci sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, sentiamo qualche ascoltatore. dà qualche contributo in più rispetto alla sua riflessione. Oggi nemmeno leggo gli sms perché farei esattamente quello che diceva prima Selvaggia, dare il senso di esistenza ai cialtroni. Scrivere un sms, quindi averci un telefono, quindi essere civilizzato, saper leggere e scrivere, essere così analfabeta funzionale tanto da scrivermi l'unica cosa certa è che le donne sono esseri inferiori e loro scoprono la vita essere sollazzo dei maschi. I musulmani hanno capito tutto, uno può benissimo considerare la donna come proprio sollazzo, figuriamoci, non c'è niente di male, molte donne non chiedono di meglio, ma dargli la dignità comunque di essere un essere portatore anche di diritti oltre a quello di darci piacere, forse è una maniera per vivere più serenamente il tempo che viviamo. Il Signore spera che qualcuno gli dia gli strumenti di sopraffazione legale nei confronti delle donne, così può dominarle. Guardate, nemmeno nell'harem il sultano ha mai dominato le donne che pensava di avere schiave nelle sue quattro mura. Questo perché ci servono mille episodi che però non posso qui citare perché devo sentire Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno, allora premetto che io sono sempre stata considerata bella, non ho mai avuto problemi non mi sono mai sentita maltrattata o denigrata, mai successo per il mio aspetto fisico, d'accordo? Quindi l'elemento di invidia che c'è spesso fra le donne, e credo ci sia stato tanto anche nei confronti di Diletta e Leotta, da parte mia non c'è. Cioè, siamo tutti consapevoli del fatto, le donne dovrebbero esserlo soprattutto, che tante volte si criticano episodi come quelli della Leotta semplicemente per invidia, perché guarda lei quanto è fica, io non sono come lei, mi piacerebbe questo avere, però ci sta tutto, è tipico, diciamo in qualsiasi società in cui ci sono donne la bella è sempre stata considerata puttana, ruba cuori, ruba famiglie, rovina famiglie, via dicendo. Cioè le donne, non voglio dire mediocri, che è un termine crudele, ma le donne non particolarmente avvenenti guardano sempre con sospetto quella che più si cura, che più è stata dotata alla natura, che si veste meglio, più intraprendente. Però tutto in un'ottica prettamente maschilista, perché la donna che ragiona in maniera maschilista presuppone che l'attributo inderogabile e vincente in assoluto sia la bellezza, perché altrimenti uno potrebbe fare una considerazione. Però lei parla bene. Scusi, lei nasce gnocca, grazie. Lei nasce gnocca, parla sì. Bene. Sì, provi a nascere bruttina, gracilina. Ma ci sono delle bruttine, graciline, intelligenti, spigliate. Cioè, voglio dire, ma Marisa Laurito se mi ha fatto un problema ad essere brutta. Che ne so, io non sono il suo psicanalista. Non ha mai puntato sulla bellezza, ha sempre avuto un sacco di successo. Io me la ricordo ancora, anche se ero piccolina, quando era in auge non aveva problemi di essere bella, insomma. Vabbè, ma il dono dell'ironia, il dono del altre cose. Bisogna avere anche altre cose, ovviamente. Chiaramente, se non sono bella, qualche cosa devo avere, d'accordo. Ecco, secondo lei però, diciamo, il mondo generalizzato delle donne nei confronti della donna più appariscente può mettere in campo sempre degli strumenti di crudeltà. Ma non trova che in questo momento, negli episodi che abbiamo citato, c'è una crudeltà più affine, come diceva Selvaggia Lucarelli, a voler richiudere un'altra volta il recinto delle donne, dare ragione agli uomini, cioè tutte dentro e guai chi esce fuori? Sì, sicuramente, però allora su questo sono d'accordo, e infatti io parto sempre dal discorso che ha fatto anche la Lucarelli, però io volevo fare un distinguo, secondo me, che va fatto, perché non è un criticare la Leotta, però è un rilevare una situazione che implicitamente tanti hanno percepito, tra cui secondo me anche la Balivo, anche se poi si è espressa come si è espressa, e questo può essere criticabile, però il sentimento che anche io ho provato da gnocca, come ha detto lei, è questo: una che va in televisione a lamentarsi del fatto di essere stata hackerata per quanto riguarda materiale fotografico, quindi la sua estetica, va bene? Quindi per questi hacker lei era interessante non per la tesi che aveva scritto, ma per le foto. Probabilmente possibilmente. Se l'ha fatta delle foto in nuda, che ne so, per divertirsi, ma esatto, chi è che non se le fa? Allora, le vanno a cercare della Diletta Leotta, non le vanno a cercare di Nilde Iotti. Sì, ma cercarle vuol dire hanno scassinato la sua cassaforte. Sì, vabbè, d'accordo, no, ma questo non è lecito, non c'è niente di giustificabile né discutabile. Ma quello che voglio dire è un'altra cosa: presentarsi a parlare di questo argomento vestita come era vestita non è una critica, però guardi, me lo faccia dire, è un'osservazione che dal cuore viene a una donna che pensa, tra virgolette, male di un'altra donna perché sa bene come sono fatte le donne. C'è una certa dose di autocompiacimento. Se le piace essere bella, io, guardi, mi creda, da uomo, sì, ma non ci vedo niente di male. No, ma piace poter dire, vedi, una cosa del genere è successa a me perché guarda quanto sono fica, ma poteva, lo stesso essere credibile, essere ottenere solidarietà dal mondo e che tutti si interessano. Guardi, le faccio un esempio. Anche se era vestita un pochino più, guardi, meno sfolgorata. Non sono molto d'accordo, sinceramente, perché uno si può vestire come vuole, sennò giustifica anche quelli che dicono, vedi, non ti lamentare che ti hanno violentato, avevi la minigonna. Allora io faccio tutti i giorni un piccolo video per la stampa che pubblicano sul loro sito, uno di quelli più cliccati, ma negli ultimi mesi, è un video dove parlavo di alcune foto che giravano della Angela Merkel nuda. Ai tempi della Germania dell'Est, lei era probabilmente salutista, nudista, come il 90% delle ragazze in quel regime. Ci sono delle foto lei che corre in montagna svestita. Ancora è uno dei video che la gente più guarda, semplicemente perché vede sulla copertina la foto di Angela Merkel nuda. Quindi evidentemente non è l'essere belle, non essere belle, essere particolarmente appariscenti, è che la morbosità poi si scaglia sempre verso il personaggio noto, se essa appariscente, non appariscente, dotata di aure misure o non aure misure. Sentiamo Diana. Diana, buongiorno. Diana? Diana non la sento. Stefania? Ciao. Tu pensa, Stefania, le dico, io semplicemente per tenere queste posizioni oggi c'è un tipo che poi chiama tutti i giorni, continua a darmi del finocchio, perché un uomo che si pone questi problemi deve essere naturalmente certo. Un uomo che sta dall'altra sponda, prego. Un altro cliché, quindi. Io volevo prendere anche la telefonata di prima come emblematica, nel senso che le donne sono state criticate e suddivise fino ad ora ovviamente in belle e brutte dagli uomini, e di conseguenza adesso noi ci ritroviamo in questo gruppo. Posso farle una piccola correzione? Sì. Gli uomini li dividono in quelle che la danno e quelle che non la danno, mi scusi. No, bello, sì, anche quello è vero. No, soprattutto. No, ma lo dico da maschio, non è che lo dico. No, lo so, nel quotidiano, ma si dice anche infatti che una donna è molto, io con i miei amici diciamo sempre, una donna è molto bella soprattutto se ha quella apparire di darla, nel senso, non so come dire, quella allure di donna che insomma si concede, perché poi uno mira anche a dove può arrivare, certo se sei una persona normale. È una condizione metafisica, esatto, dello spirito, non è che adesso riservata, no, solo all'atto sessuale. Esatto, non è quello il problema però ovviamente parlando in grosso, perché parliamo di persone di pubbliche, è che invece si suddivide poi ovviamente in belle e brutte, diciamo, quelle strafighe, quelle che stanno invecchiando, così via, e questo lo fa altro che fra donne è la cosa peggiore, ritrovarsi in questo cliché maschile, quindi si offendono in questa maniera. La cosa più brutta secondo me, che però dicevo prima anche l'operatore, è che ci indigna poi tutte, mi metto dentro anch'io, è un po' la bugia che ci sta dietro, nel senso, siamo tutte qua a parlare sempre dei diritti, le donne devono potersi mettere giustamente la minigonna, andare in giro vestite, ma si è perso di vista la questione che non è poi così che siamo tutte uguali, non è questa la maniera per essere tutte uguali, nel senso che se tutte ci rifacciamo le tette è ovvio che le donne, quelle che non lo fanno, si indignano e diventano cattive, perché si sentono prese in giro ulteriormente, non solo da la figura dell'uomo che dice ah guarda quella donna è bella, si mantiene bene, invece tu sai che è più vecchia abbiamo di te. Abbiamo capito perfettamente, il burka dell'Occidente, la chirurgia plastica, quindi noi abbiamo imposto alle donne anche di farsi questo carico per essere più piacenti, quelle che ci stanno ok, quelle che non ci stanno ahimè sono quelle che rosicano verso quelle che hanno la palma della visibilità, non so, ci abbiamo provato, alla prossima.